Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo seduto in fondo alla classe, tra le prime sigarette e le versioni di latino. Lei mi portò nel bagno delle femmine e vidi il paradiso. Tu sei il mattino, una porta su Marte. Sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Sono nato a mezzogiorno, tra le foglie rosse sulle strade, nella città che si metteva addosso le prime luci di Natale. Ho imparato come stare al mondo dagli ulivi nella rete, che si inchinano soltanto sotto al peso della neve. Non me ne fregava niente di Pitagora ed Euclide. Gli occhi fuggivano via dalle finestre nei prati di Margherita. Tu sei il mattino, una porta su Marte. Sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. E fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Tolse le orecchie dei libri per non farci trovare. Mantieni il segreto. E poi si tolse i vestiti e non sembrava la realtà. Però era tutto vero. Tu sei il mattino, una porta su Marte. Sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna.